Cuccuomane? Cuccuomane. E beh, aggiustatela. Sì, no, sta spegnendo. Non lo so, infatti l'ho tutta aperta, era un po' ossidata dentro, claro. Non lo so, forse è dovuta dalla batteria. Vabbè, finché va, poi quando non va più la metto da parte e me la ricompro. Ehi, se funziona ho già da recuperare. Lascia l'età. Se funziona, funziona, no? Ho capito, ma quando non va più che mi fate il problema non posso stare smonta. Poi ieri come l'ho smontata si sono staccati i fili della scheda madre, cioè dalla schedina dentro, dai, i fili dell'altoparlante, meno male sapevo dove andavano, sennò è stato un casino. Sì, no, ti ponessi i guffi. No, i cazzo, mi guscia. Io ho il caricabatterie di un Voxon che non funziona. Si sono rotte le alette per caricarlo. Le ho allungate con due gocce di stagno, ma non carica lo stesso. Bisogna riparare quello lì. Allora, quello lì devi essere sicuro, quando lo attacchi arriva la tensione, prova. Sì, si accende la luce, la tensione arriva, non carica, quando lo innesti dentro non carica. Non carica perché non toccano i filamenti, capito, le lamelline. E quanto arriva la tensione? Di tensione? Non l'ho provato, però si accende la luce, perché l'altro funziona, capito? Con lo stesso caricabatterie. Hai capito qual è? Quello che si innesta dentro mi rimane in piedi. Ci sono rotte le lamelline, positivo e negativo. Le ho allungate con due gocce di stagno, sembrava che andasse bene. E invece ci sono anche le altre due rotte. Se non lo vedo, ho capito, ce l'ho anch'io da base quello. Ce l'ho anche, vabbè, me lo porti un giorno e magari mi assillo io se riesco a sistemarlo. Non c'è problema. Ma li si può fare con due pezzi di rame un po' massiccio, si piegano bene, si fanno le curve, se no ci vogliono due pezzi di coso, di molla, che la molla, capito, flette, torna indietro. Bisogna studiarsela, io quando ce l'ho in mano penso e magari riesco a ripararlo. Quello se lo ripari c'hai anche la radio, capito? Meglio di chissà chi vai, anche con 320 euro il Voxon, capito? Non è bau bau, è un bibanda serio, solo che io non ho, è sempre scarico perché carica batteria e non carica più, capito? Ok, intanto ci dobbiamo vedere e te lo, si apre, c'ha tre viti sotto. Togli il coperchio, si vedono le lamelle dove sono rotte, si possono rifare, ma io non la giugana la pintami di va. Ti sto mandando una foto, aspetta. Magari uguale al tuo il caricabatterie, prova a mandarmi la foto per vedere. Vabbè, c'è qualche filo di polvere, io cazzo sono maniaco di queste cose, vabbè. Perché sempre lì buttato. No. Non sembra uguale. Comunque è così come questo. È come questo. E poi quando ci vediamo te lo do. Lasciamo il portatilino. Se riesci a caricarlo. Io le alette le posso staccare se da dove, che sono simili, da tagliate, no? Come la moletta, poi vanno piegate. Dal che molla, quella è una specie di molla, da. Si chiama quello che metti nella macchina, accendi i sigari, no? Lo spinotto, però quello che gira la corrente. Guarda uno di quelli. No, adesso ti mando la foto. L'ingrandisci e guardi dentro, te la faccio proprio dentro. Dove ci sono. Come sono le lamelle, capito? Sono rotte. E gli altri lo stesso, vogliono cambiare tutte e quattro. O si adotta un altro sistema, boh. Non lo so, perché è un peccato, ma ti faccio la foto del portatile. E del coso, guarda. Agita. Ti vuoto la foto dello portatile, boh, vabbè. Aspetta. Ehi, fai, tanto mi sposto un attimo nel camera da letto, provo a fare un cavo di telefono, aspetta. Già sono qua. Ehi, l'ho visto, claro, ma non ce la farà mai, dai. Caricare, sono rotte. Perché sono due alte, due basse, come fa a caricare, me lo spieghi? Ma quelle due basse sono rotte. Se le guardi bene sono rotte, ci mancano i due pezzi che girano. Le altre invece le ho allungate con un goccettino di stagno, ma non ce la fa caricare. Che modello è la radio? Ah, te lo dico perché ci vedi scritto, vegeta. Fai prima in grandi tu, no, vengo ruda. Dual Bender RG UVG UVG no, so AG AG UVD IP, così mi è scritto della Voxum. No, non ho capito, scusa, mi sono spostato un attimino in camera da letto, dimmi. Modello RG UVD IP, non so. Guarda che c'è la foto, è nuovo, me lo sai che ti guardi imbatti un bel imbatti un bel, io lo usavo in macchina sui ponti, figurati. Sì, ma la foto non vedo bene il nome della radio, è un po' offuscata. È un Voxon Whisky Oscar Unifor, xilofono Unifor N, Voxon. Amatoriali, Voxon, non li conosci Voxon? Ma poi da su internet che ci sono. L'avevo pagato 120 euro questo. Un bellissimo bibanda, doppio display, molto bello. Allora, Whisky Otranto, poi vabbè, XUN. No, Whisky Otranto UXUN, UXUN. Vauxhall? Esatto. Cioè, costa 1590 euro. No, portatele, devi mettere la sigla. Beh, Vauxhall costano sì. A voglia se costa. Cioè, comunque, dai, cioè, intorno ai... Allora... C'è anche alla Voxun K, aspetta, alla Voxun KGUV 8D, in Cina costa 8 euro e 9,82. No, ma non è quello, questo è l'RG, RG UVD IP. Alla RG UVD IP. IP, Palermo, IP. Sì, Italia Palermo. Guarda, io l'avevo pagato sui 100 e qualcosa. Allora, qua c'è caricabatterie, costa doppio, cioè per mettere la batteria singola e in più per mettere il portatino, costa 31,35. Per mettere la batteria. No, quello il caricabatterie uguale al tuo, così. Uguale a quello lì ci vuole. Uguale a quello che mi hai mandato la foto tu, come ti ho mandato io quella lì. Perché dietro io ce l'ho l'attacca, quello che si attacca alla 220 e poi si attacca alla caricabatterie, quello c'ho tutto io, capito? C'ho tutto. Allora, ripeto, se arriva la tensione, mi sai, su 2 arriva la tensione, sui 4, 3, 4, boh, non mi ricordo, per esempio nel mio ne ha 2 e arriva la tensione, adesso non mi ricordo, mi sai, 10 volt. Lì, claro, non lo so, misura se arriva la tensione. In tutte e quattro o in due solo? E quali sono i due che dove arriva la tensione? Quelli che ho messo lo stagno, ti ho detto, c'è scritto positivo e negativo. Gli altri due non lo so a cosa servono. Tensione non ce n'è. Il filo è 12 volt, arriva a quei due lì, capito? Perché io per caricarlo una volta ho saldato due pezzettini di filo, l'ho tenuto sul positivo e negativo della radio e ha caricato un pochino. Vabbè, dai, se capita si può anche provare, non costa niente. Ho aggiustato cose che non si potevano aggiustare, claro. Purtroppo ci vuole fantasia e attrezzatura soprattutto. Se non c'è fantasia e attrezzatura non fai niente. Bravo, io non aggio né fantasia né attrezzatura. Tu vuoi fantasia e attrezzatura e mano ferma, capito? Quindi, quando ci vediamo adesso, noi non ci mettiamo d'accordo, perché devo attaccare quel tappo, devo mettere quel tappo prima che piova, e così ti do tutto e t'arrangi. No, invece non c'è problema, non è che mi dibaga l'attenzione, ci mancherebbe. Quando, allora, io questa settimana dovrei essere libero, vabbè, tipo, allora, domani, domani sono un po' impegnato. Domani cos'è? Martedì, eh? No, domani cos'è? Giovedì mi sa sono libero, giovedì. E guardiamo se c'ho la macchina. Poi scendere a prendere la scala, capito? Perché mi sa che l'aria di mattina, giovedì, non lo so. Comunque ti faccio sapere, no? È così importante. Non è che... già non entrerebbe al vicino, deve fare un vento particolare per entrare l'acqua, capito? Quindi non c'è problema. Ehi, perché lunedì sono impegnato, un lavoretto da fare, sono impegnato. Non ti preoccupare, Taponado, no, già ti avviso io. Io te lo dico, poi se sei libero si fa, se non sei libero pazienza. Sì, tu chiama per comando un messaggio, poi già non ce ne sono problemi, si carica la scala in macchina. E diciamo che quella scala, cavolo, me l'avevi guidata, era un po' rugginosa, l'avevo tutta levigata, fatta a carta vetrata, bella, uscita bella, lucida lucida, l'avevo riverniciata, l'avevo fatta bianca e nera, l'ho prestata, tanta bianca di tinta, ha detto, ma come lo fai a me a fare così nuovi, dopo i bricani mi adorano e mi fanno schifo. L'ho lasciata così, finché va, la sto usando comunque per salire sui tetti, finché Dio mi lascia salute. Tu sei andato bene, Duca, che l'hai prestata e te l'hanno tornata sporca. Io l'ho prestata per non tornarmi la più, perché me l'ho ricomprata più grande di quella, capito? A tre ante, in tre pezzi. Era quasi 8 metri, tutta lunga, con i piedi larghi, che appoggiano a terra, bene, in sicurezza. L'ho prestata per fare un lavoro e non me ne hai più tornato, per non tornarmi. Mi ha detto che le hanno rubata dal cantiere, capito? Ma non funziona l'usci. Pazienza, non funziona l'usci. Vuol dire che sono l'unico imbecille io. Che presta il goccia, poi quando ci viene a me me la giudico imparare, capito come funziona invece. Vabbè, impareremo. Vabbè, fate il conto, io l'ho tutta levigata con la mia tutù. Era abbastanza nuova, ci manca un gommino, ma chi se ne frega? Volendo si possono fare, magari... rimetti quel materiale, come si chiama quello che usiamo, Mari, quello per i pacchi, un po' di quello con l'altro, rimane, alla fine già rimane, era nuova, la giubilata, cazzo c'è tutta piena di tinta, cioè no, io solo li ho spesi anche per le bombolette, mi sa ho preso 4 bombolette mi pare. Ma cosa l'hai verniciata, alluminio? Sì, alluminio zingato, sì. Quindi mentre stavi verniciando l'alluminio c'era anche lo zingaro vicino a te? Sì, no, lo zingaro era ancora lì, ancora non l'avevano preso. Hai visto, va l'ha rimigliato a Johnny Secchino. Sì, claro, l'hanno rimigliato lo zingaro, va, è arrivato un affari. Invece chi deve continuare a giocare a nascondino, come si chiama? Mesina. Sì, ma Mesina no, è Johnny lo zingaro. Johnny lo zingaro è imbecille, questo era diretto Sassari. Mesina chissà dov'è e chi lo sta aiutando, quello c'è stato in paradiso a tutte le parti, sta scherzando. Dice è un professionista, dite un imbecille. Adesso si ha fatto ribere i color gianduia. Cosa, Cla? Si ha fatto ribere i color gianduia, quando l'ha imbigliato va via, liberi mezzo biondi, mezzo tipo d'avroscio. Qua non va via un rossetto, senza vaiba, Jessica. Per carità. Oh yeah, vabbè. Così è, comunque. E viva Johnny Secchino, come ti chiamo? Johnny lo zingaro. Questo Mario ha fatto venire un zucca, ha fatto uno sguardina. Lo zucca, va, giù, c'è su, Mario. Perché questo sguardo? Cosa gli hai detto? Era uno scherzo. È uno scherzo, sempre non prendi, mia va. Sempre non prendi, già. E che femmine, vuole pigliare? No, le non ti piacciono. Ah, cavolo, i piatti femmine, un po' di voce, già. No, cosa ne dici? No, io Anna, quando mi fa incazzare la piccola guaccone, la lascio in chivia, a Sirena, quando ribassa entra. No, io volevo piccare l'armadio, con quelle cruci. Ogni tanto ci voglio provare, ma ne farà sempre. Oh, Anna le fascia, chissà, ma ti ho fatto uno di mascella, di legna. Ma me ne posso fare una da chi tu, mi conosce, in alluminio. E una traversina in alluminio, capito? Un palo idraulico, è vero che appoggio. Ah, palo idraulico, Cesare. Mitico palo idraulico. No, guarda, giorno siamo scesi io e Gianni Natalino, là, Cesu, tu ti saresti pisciato in Nantu, ma te lo giuro, ti saresti pisciato addosso. Lo conosco una vita io, mi no, non c'è bisogno, ne ha combinato di peggio, hai capito? Ne ha combinato di peggio, a scala piccata Oggi mai incendi la binetta, mi. Quando siamo andati la prima volta a Scalapiccata, io, lui, altri CB di Alghero, eccetera. Oggi mai incendi la binetta, mi. Passi di Rovuga a pigliare l'alcol, gas, una via massa 4 metri. No, vabbè, ma a scongiare il pane con il phon, con la sua cappelli. Allucinante. Con la sua cappelli ne faceva anche a... A Natale aveva scongelato il panettone col gelato che aveva messo in freezer. Ma sui capelli? Allora un cosa, se poi sui capelli io lo scongelavo quando veniva niente in pressa. L'uboi può scongelare con sui capelli. Gianni è un bastardo, allucinante. Non voleva zio più. E della c'è mudigato, non riuscivo manco a stare in chino, dove si abbaidava. Qua allucinante. Sì, ho combinato io la buona anima del financiero. Andavo nel primo periodo perché Rita era... Gli avevo presentato a Teresa e quindi ogni volta che andavo, sali con Franco con Teresa, quindi la domenica salivamo, capito? Ma ovviamente non avevo combinato. Poi avevo già Franco, bastava due bicchieri, cominciava a ridire, pariani, due gojigas, per carità. Non lo posso immaginare, adesso ho acceso un computer che avevo sistemato e l'ho portato qua alla Marina per usarselo lì, ma dice ancora non l'ho usato. Perfetto. Avevo cambiato il pannello LCD, poi avevo cambiato l'hard disk e avevo sistemato l'alimentatore. E avrà 6, 7, 8 anni. Era un buon po', funzionava bene. Ma ci ho mandato del zero, là. Però vabbè, c'erano quei problemi lì, ma i pezzi ce li avevo già, non ci butto niente, meno male. No, ci butta niente, c'è un armadio io pieno di roba che può servire sempre, tutta roba elettrica, elettronica, capito? A volte servono, va bene. No, io sono uscito poco fa, sono andato a fare la commissione, ci ho passato davanti allo spin, adesso entro. Ci ha sensibilizzato poco un carrello di cagate, gli ho sbagliato, patatine, noccioline, ho preso una bottiglia di lambrusco, ho preso un tiramisù, il pane all'uva, pesci. Beh, Lugarie, io ti lascio una mezz'oretta, dai, che vado a farmi la barba, ci sentiamo dopo, c'è tutto acceso qua, ok? Via, va bene, Cla, più tardi, ciao, anche io tanto tra un po' esco, dai, che salgo per il cagnolino. Lo porto a passeggio un po', a più tardi, se no domani, dai, ciao, già ci aggiorniamo per quella roba là, ciao. Sì, già ci aggiorniamo, saluta Marina, a più tardi, ciao. Passeggio, sì. Ciucca. Pompo, ti ho mandato un messaggio, non mi hai risposto però, brutto buco, buttuso. No, dormito ero quando tu mi hai mandato il messaggio. Già l'ho letto. Vai, tu sei cuocuo. Sì, vai. No, sono cuocuo, ma ne ancora. Ma cos'è, la X30 o la X300 con l'antenna? La X300, la X30 è la metà di quella della X300. Ma è nuova, sei sicuro che funziona? C'ha il coso per agganciare il palo? Sì, è nuova, c'ha tutto. Mandami la foto, me la puoi mandare? Sì che te la posso mandare la foto, qual è il problema? Allora mandamela. Adesso te la mando. Porto una cassa di birra, anche due me la dai. Sei sicuro? Adesso ti mando la foto. Questo canale c'è un coso, di pappagallo, c'è un pezzo ripetitore, quindi pappagallo. Ciao, ti do un microfono di mammo. Un microfono di mammo, intanto. Naggio microfono in ordine. Oia, ne sono baracchini. Vabbè, dai, ci mettiamo d'accordo, non ti preoccupare, con me non ce ne sono problemi. Eia, vabbè, perché ti mando la foto prima. Eia. Che mi sa che non so piazzarla qua o piazzarla a casa della mamma, vediamo da. Devi piazzarla almeno 3-4 metri di altezza, se no non concludi nulla. Perché l'ho messa attaccata alla mantova e mi dava problemi alla mantova addirittura. Ok. capito? Mi dava un, mi ha dato un euro stazionario attaccato alla manta qua, e ha già bruciato un finale di lineare, quindi vorrei distanziata dall'antenna del baracchino e devi sollevare almeno 3-4 metri questa qui, se no non conclude nulla. Già sono qua, pompo, manda la foto, dai. Ciu. Già l'ho vista, pompo, l'ho vista, dai. Sì, aspetta, tu me la, te ne mando anche l'altra foto. Ecco fatto. Adesso ce l'hai la veri meglio, non mi sento terra. Ciu. Ricevi pompo, 1, 2, 3, prova. Segnale 6, sei qua. Aspetta, faccio la prova, allora, con questa, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Adesso? Segnale 3, 6, eh. Oscillante a volte 4, dipende da come ti metti. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova, 30, 40, 50. Quasi 6 adesso. Quasi 6? Sì, quasi 6. E adesso 30, 40, 50. Vado un taggio inteso. Mi senti? 1, 2, 3, prova. Adesso sì che ti sento. E quant'è il segnale adesso? Adesso è calato. In pratica sei quasi 1. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova. 5. Va bene, dai, lascio questa allora. Un antenino ho cambiato e basta. Ah, vabbè, se avete quello lungo ha più guadagni di quelli, avevo regalato tre di quelle antenne, come si chiamano, Dagona, da non mi lamento più, no, ho pagavola, non è che mi ricordo bene, di quelle ho regalate tre o quattro a coso a un CB che sto usando per andare a caccia. Ma questa è originale, la sua originale, pompo. Ah, allora già va bene, se è l'originale molto meglio, capito? E già è bellina. Oppunio, sono tutto gonfio! Un poco! Eia! Mi senti Antonio, sono col portatilino? Sì che ti ascolto. Io qua non sento a tutti, anche molti sento. Vabbè, sto usando un antenino autocostruito. 9,20 adesso sei. Quanto? 9,20. Che hai, pitta? È un piccolo antennino che ho fatto. Da una. C'avevo un'antenna vecchia in ottone. E mi ho fatto l'antennino per il GT5TP. Ah, ho capito. Gli va bene. Sta facendo benissimo. Quella cosa forse la diamo domani, quella storia che serviva a te e poi non ti sei fatto più sentire, la sto dando fuori per 400, domani vengono a prendersela. Ehi, cappa, io devo ti dire, non potrei, dove mi metto di fuori 400, se non sono riuscito a vendermi quell'apparecchio, capito? Anzi, quello che sto usando adesso in pratica, se l'avevi fatto subito fuori, capito? L'avevi già dato quei soldi e mi sarei ritirato anche quella cosa lì. L'avevi parlato in garage, poi con calma mi sarei fatto la targa e tutto il resto. Lo sai quanto vogliono in tutto, tra targa, immatricolazione e passaggio? 140 euro. Già lo so, ho chiesto qua sotto le fanno, mi sotto casa mia, quella roba lì. Anche la targa addirittura, c'è l'agenzia Delta qua, fanno tutto loro. Sì, questo c'ha già la targa sua, così che sta pagando 120, se no all'ACI 140, sì all'ACI, al centro azzurro 140. E positivo, già va bene. Io vabbè, già ci saranno altri corsi, se riesco a farlo fuori, in seguito già va, o il piglio motorino di quelli a cosa, quegli UFO, costa 800 euro viene, quindi lo posso pagare là direttamente 500 in contanti e tutto il resto me lo faccio a 300 euro a ratte e sono tranquillo. Quando devo andare a fare la spesa mi metto la roba dentro al cofano che c'è e non pago né assicurazione né bollo né nulla. E guarda che cosa, c'è un bel cofano qui, praticamente sono due sedili dietro e per caso al manco tre carrelli di spesa ci stanno, tranquilli tranquilli, un peccato che non te l'hai preso, veramente un peccato, per te ti servirebbe appunto per fare la spesa, quelle robe lì. Lo so, non ci posso fare nulla, sai quanta gente ho chiesto per questo coso qua, tutti, e l'uomo, sì, gli ho dato la foto, gli ho fatto far sentire funzionante, no, evidentemente non volevano spendere 500 euro, capito? Non posso mica regalarlo, se me la posso a darlo per 200-300 euro questo apparecchio qua, è nuovo, non c'è manco un graffio, poi c'è il kit completo, capito, per poterlo utilizzare in macchina, roba che i primi che sono usciti il kit non ce l'aveva all'interno. Lo so, io non te l'avevo messo su Facebook, forse mi avrà contattato una o due persone, ma il prezzo è... E purtroppo sì, la gente da una parte non vuole spendere, un periodaccio per tutti, così che magari lo abbassi 50 euro e lo vendi il giorno dopo, capito? Io lo so, l'altro giorno mi ha scritto uno, prima voleva un alimentatore, un HP12, prima ne voleva 100 euro l'alimentatore, adesso mi ha scritto se lo vuoi Antonio 50 euro, ha detto no, gli ho detto non c'ho soldi in questo momento, gli ho detto. E te bisogna che aspetti al primo del mese, se ti va bene, tu così siano paziente. E dice manda in posto P, sì, gli ho detto. Aspetta che mi faccio la posto P così mi arrestano. Perché? Perché con la carta che ho, quella là, la posto P non si può fare, lo sai, no? Se dovessi andare alle poste a primi una posto P immediatamente me ne tolgono tutto. E anche io faccio la posto P, faccio la posto P, PayPal. Sì, ma io ho delle tue cittadinanze, è una cosa diversa. C'è anche scritto nel coso che non posso aprire nessun conto corrente e tantomeno prendere una posto pay e trasferire i contanti da una carta all'altra. Per quello che ti danno i contanti, 140 euro mi danno l'uno, poi tutto il resto lo spendo solo nei negozi. Già lo so, ormai sono... Non si può più trasferire niente da quella alla posta IP, l'hanno già bloccato. Te lo sto dicendo. Se avessi fatto una cosa del genere avrebbe direttamente bloccato la carta, ve la forza. Se avessi avuto il RAIS o il RAI, quello che davano prima, che mi davano i soldi contanti direttamente dalla banca, allora sì. Mi avrei potuto aprire il conto corrente immediatamente e mi sarei fatto la posto P, a meno per comprare qualche cosa da internet, capito? Ma tu la posto P la puoi fare, cosa vende? Anche io in un villaggio, quando devo comprare qualcosa o vendere qualcosa eccetera, vado, me la tabacchino, me la carico e compro, cosa vende? Niente, non la puoi usare, cioè nel caso mio non la posso fare, hai capito? Solo se avevo tu il re o il re, sì, me l'avrei potuto fare, perché dandoti i soldi di conti così non sei obbligato, capito? Non posso aprire, cioè una posto per non la potevo, in pratica così come adesso non la posso manco aprire. C'entra. Che loro vogliono sapere tutto, vogliono sapere, capito? Ma io no, assai, ma la ho 20 anni, la posto IP e la PayPal. Non l'ho mai chiuso, l'ho solo rinnovato quando scadevano. Anche io c'avevo il conto corrente, ho dovuto chiuderlo, figurati. Ho dovuto fare il foglio di giacenza, media, perché stavano bloccando la carta, capito? Mi è arrivato il foglio, io stavo facendo il furbo, c'erano anche 200-300 euro e hanno voluto il foglio di giacenza media. mi hanno chiamato dal CAF, dice Antone, voglio le foglie di Jack and Savage, se no dice non ti caricano la carta, quindi ho dovuto fare la chiusura conto, eccetera, eccetera, e eliminare tutto, e allora la carta me l'hanno caricata, è tutta una fregatura questa cazzo di carta qua, capito? Deve andare per forza nei negozi per farti la spesa, o comprati i vestiti, se devi comprare, però in contanti non è, solo 140 euro puoi ritirare ogni mese, solo quello ti danno. No, se vuoi li prendi tutti, ti servono tutti, te li faccio avere io. No, non te li danno, sai quante volte ho provato, andavo lì alle poste, infilavo la carta, no, nulla da lavare, non te li danno solo dei contanti, solo il primo del mese ti danno solamente 140 euro disponibili in contanti, il resto è dentro la carta, capito? Poi Antonio, se ti stai dicendo, ce l'ho anch'io quella che c'è tu, ti stai dicendo, se tu li vuoi tutti, la metà, un terzo, tu a fatti dinni, che già, tu anche tutti te li possono dare, ma non le poste, no, cosa si dice? Ma le poste io vado sempre, a meno che non so, non vai in qualche banca che faccia tutto, allora sì, tanto è una carta Mastercard più che altro. No, ci sono altre scappatoie, dai, se ti interessa già ne parliamo. Vabbè, mica lo sapevo di queste scappatoie, se ci sono. Me le chiedo tutti direttamente i contanti, e forse prima. Tutti i canti ne li vuoi bugare, tutti, capito. Uscita la legge, trovato l'inganno. Va bene, dai, se ti interessa mandami un messaggio. Ehi, va bene. Io sono qua e sto facendo cosa, ciao. No, sto facendo cosa, dai, salutalo tu, ci sentiamo. Scusa, mi senti? Sì. Sto usando quel portatile, dai. Sto usando quel portatile, sempre quello, dai. Dove sei? Io non ci manco. Ah, ecco. E dopo giù, l'ho ingrassato, guarda, davanti al piatto. Ascoltato tu. Dimmi, cosa c'è, signor Bacchi? Signor Bacchi? Cosa c'è? Ave! Che cosa ti avvenendi? Cosa ti sta avvenendo? Stasera, ciao Mari. Guarda adesso, 1, 2, 3, vai. Signor Bacchi. Mi senti? Forte e chiaro. Parla. Allora ho già fatto un bel lavoro, dai. Bacchi, ma mi ascolti? Sì. Come non ti ascolto? Questo è l'antennino tuo. Oh, guarda che quando come arrivi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 9 è spaccato. 3, 4 e 5. Perché non ci sono più LED. Se è mancato LED, forse è ancora camminato. No, già va bene, dai, per l'antennino che è già va bene, vai tu vicino. A me arrivi a fondo scala. Cos'è? Mi arrivi a fondo scala. Ciao Giamari, era il 27 prima. Chi c'è, signor Bacchi, giù pure? Ehi, vai Bacchi. Attenzione, signor Bacchi, zitto. Ti stavo chiamando il 27, adesso sei qua. Buonasera Giamari, vieni a scucciare, avanti. Buonasera Bacchi, ben sentito. La bomba sì, stai arrivando veramente bene. Ho cambiato cavo stasera, bene me va, bene me va. Tranquillo allora, perché senti, mi sentivo un bel basso, ma basso però. Mi senti 27. Bene, ma non